Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Anche il terzo commissario governativo si è dimesso. Deve finire questo commissariamento della sanità calabrese da parte del governo e soprattutto si può veramente dimettere il ministro Speranza. Siamo disponibili ad una gestione unitaria condivisa con il governo, Regione Calabria e governo. Buona serata da Valentina Furlanetto, dalla redazione di Radio 24, sono le 21.03.49 e questa sera parliamo chiaramente della notizia del giorno che avete sentito, la voce del presidente della Regione Calabria Nino Spirlì. Una diretta Facebook ha commentato la rinuncia di Eugenio Gaudio al ruolo di commissario della sanità in Calabria. La Calabria perde 3 commissari in 10 giorni. E quindi Spirlì chiede, come avete sentito, le dimissioni del ministro Speranza, le chiede anche il segretario della Lega Salvini, ma sono tanti i temi di questa sera. La conferenza Stato-Regioni con il vicepresidente governatore Ligure Toti, che avremo poi in diretta, gli anestesisti che non ci stanno alle parole tranquillizzanti sui macchinari in terapia intensiva di Arcuri, e rispondono che mancano gli specialisti, ancora il tampone sospeso, un po' come il caffè sospeso, un'iniziativa che è nata a Napoli. E un omaggio a Carlo Verdone, che compie gli anni oggi, in chiusura con la nostra Marta Cagnola in collegamento. I numeri per scriverci 349-238-6666, ma prima, per ricordarvi i temi della giornata, vi riepiloghiamo le principali notizie. Covid, quadro stabile, dice l'Istituto Superiore di Sanità, 32.000 i nuovi contagi, oltre 200.000 i tamponi fatti, vittime in crescita, oggi 731. Le regioni chiedono procedure più semplici per cambiare fascia di rischio, ridurre gli indicatori a 5, caos Calabria, si dimette Gaudio. Il richiamo di Mattarella all'Assemblea dell'ANCI, serve leale collaborazione istituzionale, dice, ora ripartenza dell'Italia. L'Unione Europea accelera sui vaccini, accordo con CureVac, si tratta con Moderna per la fornitura di milioni di dosi del vaccino. Insomma, l'avete sentito, i numeri in primo piano, i numeri del Covid, oltre 200.000 i tamponi effettuati nelle 24 ore, 32.000 i nuovi contagi, per un quadro generale che l'Istituto Superiore di Sanità definisce però stabile. Preoccupano però le vittime, facciamo allora il punto. C'è una sorta di stabilizzazione del numero di test positivi giornalieri, forse con leggera flessione. Lo ha detto Gianni Rezza, direttore prevenzione del Ministero della Salute, presentando i dati relativi alle ultime 24 ore. I nuovi casi sono 32.191, circa 5.000 in più dei precedenti, su oltre però 208.000 tamponi, circa 50.000 in più rispetto al giorno prima. Impressiona però il numero delle vittime dell'ultimo giorno, 731, come non si vedeva da marzo. Un dato negativo che però non è in controtendenza, ha spiegato Gianni Rezza. È dovuto al fatto che purtroppo i decessi fanno riferimento ai casi che si sono andati accumulando negli ultimi 2 mesi. In discesa il tasso di positività è arrivato intorno al 15%. La regione con più casi è sempre la Lombardia, seguita da Piemonte, Campania e Veneto. Quanto all'indice RT è affidabile, ha detto Stefano Merler della Fondazione Bruno Kessler in conferenza stampa al Ministero della Salute. Non consideriamo gli asintomatici, ha spiegato, perché sono una quantità molto instabile nel tempo e quando c'è difficoltà nel tracciamento la loro quota diminuisce. Sentiamo Merler. Non c'è molta incertezza sulle stime che facciamo. A cosa serve veramente RT, a parte le discussioni e le classifiche fra regioni che non mi appassionano? Servono a dare indicazioni su quello che può succedere ed è la cosa più importante. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo al fronte regioni governatori in pressing perché siano cambiati i parametri da 21 a 5 indicatori. E questa è la richiesta, mentre intanto in Calabria è ancora polemica sulla figura del commissario. Partiamo da qui. Prima Cotticelli, poi Zuccatelli, quindi a neanche 24 ore dalla nomina anche Gaudio, 3 commissari in 10 giorni per la sanità calabrese che si ritrova al punto di partenza, in una situazione cioè già abbastanza grave senza che diventi grottesca, commenta Gino Strada. Non ho ricevuto alcuna proposta formale, torna a scrivere ora il fondatore di Emergency, smentendo voci governative che lo consideravano non disponibile a fare ora lui il commissario. Il passo indietro dell'ex rettore della Sapienza arriva neanche 24 ore dopo la sua nomina. Per motivi personali, mia moglie, spiega Eugenio Gaudio, non vuole trasferirsi a Catanzaro. La scelta di Gaudio era stata preceduta già da polemiche anche per l'inchiesta a suo carico a Catania, che volge però verso l'archiviazione. E ora le sue dimissioni diventano un caso politico che investe in pieno l'esecutivo. Le opposizioni chiedono le dimissioni del ministro della Salute, come fa anche il presidente facente funzioni della Calabria, Nino Spirlì. Una grande delusione, devo dire. La giustificazione offende doppiamente. Deve finire questo commissariamento e soprattutto si può veramente dimettere il ministro Speranza. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Indicatori più semplici per definire le zone di rischio Covid e decisioni più condivise. I presidenti di regione concordano in teleconferenza e inviano al governo un documento che chiede la revisione dei famosi 21 parametri. Il Veneto, Luca Zaia. Si chiede di rafforzare il confronto preventivo, non mi puoi dire venerdì che sabato sono in zona rossa, e dall'altro una sorta di tagliando questi parametri. Visto il sovraccarico delle ASL, le regioni chiedono che i test rapidi antigenici siano ritenuti sufficienti per far scattare subito quarantene e tracciamento senza aspettare il tampone molecolare. Si chiede poi di sfoltire i 21 parametri a soli 5, facili da comunicare e aggiornati ogni giorno. Percentuale di positivi senza i test di verifica, indice R:T, ricoveri, risorse per il tracciamento. Le regioni chiedono un incontro con il ministro Speranza e l'Istituto di Sanità prima del prossimo report settimanale di venerdì. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È un richiamo all'unità quello che il capo dello Stato rivolge dalla platea dell'ANCI alle forze politiche e alle istituzioni per affrontare questo difficile momento. La pandemia ha modificato i ritmi della nostra vita, ha inciso su tempi e luoghi di lavoro, e con essi sull'uso di spazi e infrastrutture pensati e costruiti per altre esigenze. Appartiene alla Repubblica saper leggere i segni dei mutamenti e saper creare i percorsi affinché gli obiettivi di libertà, giustizia, coesione sociale che la Costituzione ci affida trovino applicazione nel tempo nuovo. La didattica a distanza senza consumare gigabyte. Da oggi le studentesse e gli studenti potranno seguire le lezioni online senza consumare il traffico dati degli abbonamenti ai telefoni cellulari. I ministri dell'istruzione Azzolina per le pari opportunità e la famiglia Bonetti e dello sviluppo economico Patuanelli per l'innovazione tecnologica Paola Pisano hanno invitato i principali operatori di telefonia mobile a identificare soluzioni che agevolino i ragazzi nel seguire le lezioni da remoto. Team Vodafone T-Wind 3 hanno accolto l'invito del governo ed escluderanno le piattaforme di didattica a distanza dal consumo di gigabyte previsto negli abbonamenti. E ora apriamo il capitolo vaccini. La Commissione europea sigla un quinto contratto con l'azienda farmaceutica europea CureVac verso l'intesa anche con l'americana Moderna. La Commissione europea ha approvato oggi un quinto contratto con la società farmaceutica europea CureVac che permetterà l'acquisto iniziale di 225 milioni di dosi per conto di tutti gli stati membri dell'Unione europea, con l'opzione di richiedere fino a 180 milioni di dosi ulteriori che verranno fornite non appena saranno dimostrate la sicurezza e l'efficacia del vaccino contro il Covid-19. Il contratto odierno con CureVac amplia il già vasto portafoglio di vaccini che saranno prodotti in Europa, si legge in un comunicato diffuso a Bruxelles, compresi contratti firmati con AstraZeneca, Sanofi GSK, Janssen Pharmaceutica NV e BioNTech Pfizer e i colloqui esplorativi conclusi con successo con Moderna. Gli stati membri possono anche decidere di donare il vaccino ai paesi a reddito medio-basso o ridistribuirlo ad altri paesi europei. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha dichiarato: fino ad oggi la Commissione ha garantito almeno 1,2 miliardi di dosi e ha rispettato l'impegno preso volto ad assicurare un accesso equo a vaccini sicuri, efficaci e a prezzi contenuti. E questo non solo per i cittadini dell'Unione europea, ma anche per le persone più povere e vulnerabili al mondo. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Restiamo in Europa, veniamo al Recovery Fund. Il commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni si dice preoccupato per lo stallo causato dal veto di Polonia e Ungheria. Il ritardo sul recovery fund preoccupa, ma i veti di Polonia e Ungheria, dice il commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni, è superabile, anche perché rileva Varsavia e Budapest sono fra i paesi più colpiti dalla seconda ondata Covid e sono fra i massimi beneficiari del bilancio pluriennale europeo e delle risorse del recovery fund. Io sono fiducioso che si riuscirà a risolvere politicamente questa difficoltà, ma certamente il rischio di ritardi va affrontato con determinazione. Per l'Italia sono in arrivo intanto da Bruxelles altri 6 miliardi e mezzo per finanziare la cassa integrazione Covid, annuncia la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Le risorse sono parte del programma europeo SURE, messo in campo per attenuare come sostegno temporaneo i rischi di disoccupazione in un'emergenza. Il tutto mentre a Roma si riapre la discussione sul meccanismo europeo di stabilità. È un capitolo chiuso, sostiene il ministro degli esteri Luigi Di Maio, ma il capogruppo PD in Senato Andrea Marcucci puntualizza. Nel caso che il MES sia a capitolo chiuso lo dovrà dire il Parlamento e non il ministro degli esteri. L'Italia, secondo Marcucci, ha bisogno dei 37 miliardi riservati alla sanità. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Con i temi economici torniamo in Italia. Dopo la forte ripresa del terzo trimestre, Confcommercio lancia un nuovo allarme consumi, scesi ad ottobre secondo l'indice congiunturale calcolato dall'associazione dell'8,1% rispetto allo stesso mese 2019. Mariano Bella, responsabile dell'ufficio studi di Confcommercio, commenta i dati sui consumi diffusi oggi al microfono di Sebastiano Barisoni a Focus Economia. Vanisce la ripresa. Il terzo trimestre è stato molto molto buono, molto migliore delle aspettative più rosee, ma già alla fine di settembre, come la stessa produzione industriale di settembre testimonia, siamo un'altra volta in rallentamento. In sostanza, già prima delle restrizioni, la prima del 18 ottobre, il DPCM del 18 ottobre, nei primi 10 giorni avevamo che la mobilità, le merci messe in rete, il gas erano decrescenti rispetto a settembre, la produzione industriale abbiamo detto, e sostanzialmente questo indicava che il rimbalzo statistico del terzo trimestre era molto appunto statistico, cioè l'economia si stava riadagiando sui tassi di crescita asfittici che l'hanno contraddistinta già da 20 anni, e poi sono arrivate le restrizioni. Sciopero il 9 di dicembre, quanto hanno proclamato i sindacati della pubblica amministrazione dopo il confronto con il governo sulla manovra economica. Nessuna apertura del governo sulle assunzioni e il rinnovo dei contratti nella pubblica amministrazione, nessuna risposta, dicono i sindacati, sulle risorse per lavorare in sicurezza, per avviare una vasta programmazione occupazionale di stabilizzazione del precariato. È per questo che alla fine CGIL, CISL e UIL dalle minacce passano ai fatti, proclamando uno sciopero nazionale per l'intera giornata del 9 dicembre. Così Anna Maria Furlan, CISL, a 24 mattino. Non possiamo definire tanti lavoratori, tante lavoratrici, penso modo particolare a quelli della sanità, i nostri eroi, e poi non stanziare le risorse per rinnovarli un contratto ormai trascaduto. E anche la Federazione Italiana Editori è critica sulla manovra, giudicando insufficienti gli interventi previsti per l'editoria, settore la cui situazione si è aggravata con la pandemia. Tutto questo a poche ore dall'approvazione definitiva del provvedimento che approderà la Camera nelle prossime ore. Lunedì le prime audizioni, poi il passaggio in Senato, manovra da oltre 38 miliardi di euro, che interviene su vari fronti, tra cui quello dell'emergenza sanitaria, ma che verrà potenziata, ribadisce il ministro dell'economia Gualtieri, e si pensa a un nuovo scostamento di bilancio che potrebbe aggirarsi sui 20 miliardi di euro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. I viaggi di Radio 24. Quanto serve ancora il tracciamento per contenere il virus? Da dove arrivano i nuovi contagi? Come si fanno i tamponi? Questa settimana, con un nuovo viaggio di Radio 24, proviamo a seguire le tracce del virus con le regioni spesso in ordine sparso. E oggi andiamo in Puglia. Ancora arancione, ma forse non per molto, la Puglia, che si muove al ritmo medio di 1.300 positivi al giorno, che portano a 300 ricoveri, di cui 10 in terapia intensiva. Il tracciamento è sceso da 14 giorni a 10 e riguarda i soli conviventi. In media nelle ultime due settimane si è attestato tra il 70 e l'80% di positivi, contro il 92% indicato a fine ottobre dall'Istituto Superiore di Sanità, nella cui rete i casi positivi e negativi, ci confermano da un ASL pugliese, vengono caricati a mano. più alte le percentuali nella provincia di Bari, il 95, e nella Bartolo, 89, le più esposte al contagio con quasi 17.000 positivi sui 35.482 di tutta la regione censiti ieri. I tracciatori sono in media 1 ogni 10 abitanti e 1,4 per la sorveglianza dei positivi in isolamento e quarantena. Il personale delle ASL è ovunque sotto stress e il tracciamento ha molte falle, se ad effettuarlo c'è anche personale come quello delle 50 USCA oggi operative che dovrebbero occuparsi invece solo di assistenza domiciliare. La pressione cresce, la soglia dei 2.600 ricoveri attese per fine mese si avvicina con il rischio di intaccare anche la riserva di posti letto di terapia intensiva che oggi garantisce le urgenze. Che tutto sia sempre più critico lo dicono altri indicatori, un primo ospedale da campo in allestimento a Barletta, 2.400 richieste di soccorso al 118 ogni giorno per l'80% per il Covid e l'emergenza ossigeno gassoso con 15.000 bombole non restituite alle 1.300 farmacie della regione, come denuncia Stefano Vitti, farmacista e vicepresidente di Federpharma. Il sistema tecnicamente è già in tilt perché noi abbiamo diverse farmacie del territorio che sono sprovviste di ossigeno perché in alcune giornate non viene consegnata neanche una bombola. Vincenzo Rutiliano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari. E proprio delle regioni parleremo tra poco, ma ora ci fermiamo per il traffico. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Con Toti, così come con gli altri presidenti, ci siamo sentiti anche oggi e loro sanno che i parametri non sono nati, diciamo, per un'alchimia particolarmente misteriosa, ma sono nati il 30 aprile con un decreto ministeriale e con una cabina di regia che non è fatta da persone che improvvisano, ma sono tecnici e scienziati che rappresentano il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità e tre esponenti tecnici, quindi sono tre referenti scientifici delle regioni. E torniamo in studio con la voce di Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali che avete appena ascoltato. Oggi si è tenuta la conferenza delle regioni, le regioni hanno proposto al governo l'uso di tre indicatori per definire il rischio di contagio nelle varie zone. È stato citato il presidente della regione Liguria, vicepresidente della conferenza delle regioni Giovanni Toti, che è in collegamento con noi, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Allora, vicepresidente, presidente della regione Liguria, il ministro della salute Roberto Speranza in pratica vi ha già risposto, ha detto che il dialogo con le regioni è sempre aperto, ma che sono 21 i parametri a indicare l'indice di rischio, in pratica vi ha detto di no. Ma guardi, noi in realtà abbiamo chiesto numerose cose, la prima e la più urgente è un confronto politico con il governo, perché se è vero, come ha ricordato il ministro Boccia, che quegli indicatori e quel documento fu condiviso alla fine dell'aprile scorso tra governo, regioni e comuni nella cosiddetta conferenza unificata che vede i livelli di governo del nostro paese dialogare, è anche vero che però non si è affatto chiaro, ed è quello che denunciano molti governatori, come questi parametri vengono valutati, ovvero noi sappiamo perché li forniamo quali sono i 21 elementi di rischio e quali sono i tre RT di scenario, cioè quel famoso cruscotto che determina la vita delle singole regioni per quanto riguarda le zone, ma non sappiamo quasi nulla di come quei criteri vengono poi effettivamente valutati dal comitato tecnico. E non ci si può nascondere solo dietro la decisione squisitamente tecnica, perché sappiamo tutti benissimo, qualsiasi cittadino di buon senso sa, che un numero è un numero, ma la valutazione di quel numero poi comporta alcune azioni e alcune idee che sono umane. In pratica voi chiedete che ci siano delle decisioni politiche, non un algoritmo, diciamo, che guardi, possa decidere. Guardi, noi chiediamo molto semplicemente, siccome Toti pesa 90 kg ed è alto 1,80 m, sono due numeri, 90 kg per 1,80 m vuol dire che sono sovrappeso? Certamente sì, ma questo è un giudizio umano, non è la misura delle cose. Noi sappiamo 90 kg, noi sappiamo 1,80 m. Non sappiamo all'interno di quella cabina di regia con quale meccanismo vengono ponderati e messi in relazione i vari fattori per arrivare alla decisione. Molto banalmente abbiamo chiesto di partecipare a un confronto con il governo per poter poi valutare questi elementi che sono condivisi, ci mancherebbe altro, abbiamo migliaia di uomini sul territorio a raccogliere quei dati per noi e per il governo. Quindi sui dati nessuno discute, discutiamo poi sull'analisi di quei dati su cui crediamo che le regioni debbano avere voce in capitolo, indubitabilmente. E poi abbiamo detto se fosse possibile semplificare tutti quei dati che oggi comportano una cosa molto semplice, che prendiamo decisioni su dati che, siccome è molto faticoso ed elaborato raccogliere, molto spesso si riferiscono a un periodo talmente antecedente che non sono più ragionevolmente attendibili. I dati della settimana scorsa non sono quelli di oggi. In Liguria c'era un RT intorno all'1,3, 1,4 la settimana scorsa, oggi c'è un RT pari a 1. Forse semplificare il dato e renderlo più attuale ci consente decisioni più rapide e anche più pertinenti. Allora, anche a questo proposito l'Istituto Superiore della Sanità ha risposto oggi che i dati del monitoraggio sono sempre aggiornati, che la diffusione del virus ad esempio nelle scuole è uguale che altrove, che le stime non sono incerte ma sono visibili sul sito. Allora sentiamo proprio il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. La stima di rischio è uno strumento che, mettendo insieme alcuni indicatori di andamento dell'epidemia, ci consente, come abbiamo spesso detto, non di valutare efficienza ed efficacia dei sistemi. Quindi non è una pagella, ma è un sistema che ci accompagna nell'individuare il rischio che l'epidemia possa correre priva di controllo. Ecco, questo era Brusaferro durante la conferenza stampa. Presidente Toti, l'incontro con il governo che avete chiesto, lo farete domani? Guardi, io ho sentito il ministro Speranza e il ministro Boccia oggi pomeriggio, poi per riferirli anche, oltre che con i documenti inviati in sede formale, anche come facciamo in via, diciamo, informale e con la cortesia che tra istituzioni si deve tenere, dei risultati del nostro dibattito politico e anche della necessità di un incontro. Mi è stato assicurato che entro le prossime 48 ore questo avverrà. Per la verità c'è già un, diciamo, round piuttosto impegnativo venerdì mattina quando si riunisce la conferenza dei governatori, poi ci riuniremo nella conferenza Stato-Regioni, poi ci riuniremo ancora nella conferenza unificata, quella a cui partecipano anche comuni e province, quindi penso che quella possa essere la sede per agenda più opportuna, anche perché francamente non ci aspettiamo cambiamenti repentini in questi prossimi due giorni, visto che le decisioni sono state prese tutte nelle due settimane antecedenti e il meccanismo del decreto del Presidente del Consiglio prevede, diciamo, slot di 3 settimane per la modifica dell'attribuzione di rischio, quindi immagino che questa sarà, a parte l'Abruzzo che già ieri il Presidente ha deciso di mettere in fascia rossa, non immagino sia una settimana di sconvolgimenti. Ecco, l'impressione da spettatori, da cittadini è quella di una certa litigiosità abbastanza alta fra le regioni e il governo e tuttavia voi siete stati anche delegati a scegliere, lei ha appena citato il presidente dell'Abruzzo che ha deciso di passare a zona rossa, oggi c'è stato l'appello di Mattarella ancora una volta all'unità, non è un bello spettacolo, presidente? Ma guardi, io non drammatizzerei un confronto che talvolta ha ovviamente visioni opposte, come spesso avviene tra livelli di governo in tutti gli stati dove c'è delle marcate autonomie, in Italia forse ce n'è meno di quanto vorrei, ma comunque ci sono, ma il dialogo con il governo, basti pensare alle linee guida delle regioni per la riapertura del paese, a tutta la gestione della pandemia, nella prima fase è stato un dialogo, come dire, sicuramente costruttivo, anche se spesso da posizioni ovviamente diverse perché rappresentiamo interessi di governo diversi. Se devo francamente giudicare, ma posso essere di parte ovviamente, un filo di litigiosità in più e qualche, diciamo, inopportuna dichiarazione, la rilevo dalla parte dello Stato centrale, non dalle autonomie dei territori, qualche dichiarazione di troppo di qualche consulente del Ministero che ha parlato di impreparazione delle regioni quando francamente la struttura commissariale che gestisce per tutti noi l'emergenza ci ha recapitato decreti attuativi del piano di implementazione ospedaliera solo nel mese di ottobre, oppure ho sentito parlare di revisioni del titolo quinto francamente punitive nei confronti delle regioni, come se non avessero fatto fino in fondo il loro dovere, credo esattamente l'opposto. Insomma, stiamo parlando nelle ore in cui in Calabria il terzo commissario di governo, parlo di commissari nominati da Roma, non dal governatore calabrese, si è dimesso dopo una serie, diciamo, di imprudenze, di imperizie francamente grottesca. Mettere in discussione oggi il tema del regionalismo in questa fase non mi sembra esattamente una dichiarazione d'armonia istituzionale, ecco. Grazie. Devo rilevarlo. Grazie Presidente Toti, grazie per essere stato con noi. Allora, il Presidente Toti l'abbiamo ringraziato e ci ha lasciato. Noi ci fermiamo brevemente perché abbiamo il meteo, ma visto che abbiamo parlato di Calabria, subito dopo torniamo a parlare di Calabria per il problema che si è venuto a creare con il commissario alla salute che evidentemente ha rifiutato, e parliamo anche del nodo politico che si è venuto a creare dopo questo rifiuto. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Siamo esclusi come Regione Calabria da 11 anni dalla gestione della sanità calabrese. Io posso capire che in passato ci siano stati dei malapolitici, posso capire tutto, però non posso capire come ancora oggi il governo si fissi a tenere vivo un commissariamento da 11 anni dopo che il fallimento e anche e soprattutto di tutti i commissari ad acta che si sono succeduti in questi 11 anni. E questo era Nino Spirlì, presidente della Regione Calabria. In diretta Facebook ha commentato così la rinuncia di Gaudio al ruolo di commissario della sanità in Calabria. Terza rinuncia in 10 giorni. Intanto Gino Strada ha detto: non ho ricevuto nessuna proposta formale, mentre il ministro per la giustizia Bonafede ha detto: il tempo è scaduto, basta passi falsi per quanto riguarda questo tema della Calabria, della sanità in Calabria. Elisabetta Fiorito, buonasera. Buonasera Valentina, buonasera ai radioascoltatori. Beh, insomma, è uno scandalo, dai. È uno scandalo, e come si risolverà questo nodo? Ma intanto diciamo che quello che dice il presidente reggente della Regione Calabria Nino Spirlì non ha assolutamente Spirlì tutti i torti, nel senso che sicuramente c'era 11 anni fa un problema probabilmente di infiltrazioni andranghetiste o di mala gestione, ma oggi noi abbiamo un record di contagi in Calabria, le persone poi risultate positive sono 680. Oggi ci sono 187 decessi dall'inizio dell'emergenza, quindi c'è un problema da risolvere in fretta. Questo circo Barnum che si sta verificando a Palazzo Chigi da 10 giorni a questa parte è una follia. Cioè, prima si dimette uno, poi quell'altro si dimette perché ha detto che non bisognava usare le mascherine, ma era stata estrapolata dalla sua intervista da chissà che cosa. Poi ieri, allora, finalmente l'ex rettore dell'Università La Sapienza di Roma, che si scopre essere indagato a Catania per turbativa di concorso, che è probabilmente una cosa che verrà archiviata, però nessuno ci aveva fatto caso, e lui oggi dice che la moglie non vuole andare a Catanzaro, che lì è veramente da ridere. Cioè, io penso sì, questa che è la questo... motivazione ufficiale. Ma Elisabetta... non può essere una motivazione ufficiale, allora non si accetta, non ufficiale, si può dire, cioè, ufficiosa, insomma, su... è la carta, diciamo, pubblica Eugenio Gaudio, cioè, i calabresi ha messo meritano sul tavolo. I calabresi sono in Italia e meritano un commissario o comunque una persona che segua la sanità in questo momento di emergenza. Non si può fare questa girandola, cioè ieri si è dimesso Zuccatelli, e che già subito si era capito che non andava bene, però siccome era appoggiato dal ministro della salute Roberto Speranza ed era appoggiato da Leu, ci abbiamo abbiamo messo 10 giorni. Insomma, i calabresi quanto tempo dovranno aspettare per vedere gestire questa emergenza? Questo secondo me è un aspetto che va considerato. Insomma, troppe gaffe per questo commissario in Calabria. Poi la storia della moglie, secondo me, cioè io non credo che Gaudio ieri, quando gli hanno detto guardi, vuole accettare, lui ha detto di sì, oggi dice che è la moglie, ma dai, veramente gli italiani meritano delle persone. E questo è l'ex rettore della Sapienza, e questo mi viene che per me è sconcertante. Cioè, ieri quando è chiaramente una motivazione diplomatica, cioè, insomma, grazie. Ma il premier Giuseppe Conte l'ha chiamato, no? Poteva dire no, grazie subito. Poi questa cosa di Gino Strada con Spirlì che dice dovranno passare sul mio corpo alla zanzara. Insomma, Strada che non è stato chiamato. Insomma, una gestione veramente pessima, una figuraccia per il governo senza veramente nessun tipo di giustificazione. Grazie Elisabetta Fiorito, cronista parlamentare che conoscete benissimo, collega di Radio 24. Adesso cambiamo argomento perché parliamo della situazione nei reparti di terapia intensiva in Italia. E siamo con Antonino Giarratano, presidente della Società Italiana di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva. Buonasera. Sì, buonasera. Ieri c'è stata questa presa di posizione del commissario straordinario Arcuri, che ha in qualche maniera tranquillizzato sulla situazione nelle terapie intensive. Oggi voi rispondete. Rispondete dicendo che sì, i ventilatori forse ci sono, ma se capisco bene mancano gli specialisti. Sì, mancano gli specialisti. Io credo che il commissario Arcuri da tempo stia facendo un grandissimo lavoro e sono sicuro che lo fa in maniera incessante, costante. È chiaro che noi in qualche modo abbiamo risposto a quelli che sono una serie di messaggi e non vogliamo assolutamente, sia come società scientifica che come disciplina, come specialità di anestesisti rianimatori, non vogliamo assolutamente essere, diciamo, incasellati in quella che è la categoria dei cosiddetti rigoristi o terroristi, che dir si voglia, ma vorremmo che in qualche modo fosse dato un messaggio ai cittadini e a tutta la popolazione che fosse chiaro e inequivocabile, cioè chi va in terapia intensiva per un RDS da Covid, quindi per una sindrome molto ma molto grave, rischia di morire da una elevata mortalità a quel punto, cioè nel senso che il ricovero in terapia intensiva sicuramente è gravato da una elevata mortalità. E allora la situazione attuale che vede tanti pazienti in terapia intensiva rappresenta il fallimento di quello che è stato, diciamo, un percorso di prevenzione e di controllo dell'infezione virale, cioè gli intensivisti, gli anestesisti, gli rianimatori non dovevano essere coinvolti, era più una guerra da fare in ambito epidemiologico, in ambito igienistico, in ambito microbiologico, in ambito infettivologico. In questo contesto sostenere in qualche modo che ci sono 11.000, 12.000 ventilatori, possiamo comprarne anche 20.000, non è questo il problema, ma se poi non ci sono degli specialisti che possano adeguatamente gestirli per correttamente trattare l'insufficienza respiratoria, se non ci sono gli infermieri di area critica che sono necessari e indispensabili per gestire correttamente un paziente, è chiaro che poi ci troviamo in quella condizione in cui ci stiamo trovando adesso, cioè di essere sotto grande pressione, sotto grande stress, e questo sicuramente non favorisce anche la qualità alla fine delle cure. In questo momento reggiamo bene, ma in alcune regioni, come sapete, la criticità è diventata, insisto, insostenibile. In alcune regioni anche insospettabili, mi viene in mente la Lombardia. Oggi Antonio Pesenti, primario di anestesia al Policlinico di Milano, dice che l'ospedale in fiera con 70 posti attivi, il problema anche in quel caso non sono i macchinari ma proprio il personale. Assolutamente d'accordo, Antonio Pesenti e Giacomo Grasselli fanno parte, sono dei carissimi amici che fanno parte della rete della Società Scientifica Nazionale, che è appunto la SIARTI. È quello che loro sostengono, è quello che tutti gli anestesisti rianimatori sosteniamo da tempo, cioè non si può pensare di allargare a dismisura e di inseguire. Devo dire che, risentendo poi il commento oggi in quel mio videomessaggio fatto nella trasmissione Agorà che ha fatto Crisanti, credo che abbia abbastanza, diciamo, fotografato bene la situazione. Noi non possiamo pensare di inseguire l'infezione da Covid allargando a dismisura il numero dei posti letto di terapia intensiva, perché allargando a dismisura il numero dei posti letto di terapia intensiva rischiamo di creare quella falsa illusione che siamo in grado di controllare e di guarire le persone, che poi porta le persone in maniera irresponsabile, come è accaduto quest'estate, a non tenere quelle precauzioni dovute e necessarie invece al controllo proprio della diffusione del virus. Allora a questo punto è chiaro che è importante avere un adeguato numero di posti letto di terapia intensiva, e lo sarà ancora di più, e lo è sempre stato, anche se il problema si è posto solo in questi ultimi mesi, perché le carenze di terapia intensiva, come è notorio, soprattutto nel periodo autunnale, quando poi iniziano le insufficienze respiratorie, diciamo che correlano le sindrome influenzali e quant'altro, questa carenza, dico, c'è sempre stata, ma portare a compimento il processo di strutturazione di terapia intensiva significa anche portare a compimento un processo di formazione e di diciamo assunzione anche di personale per le terapie intensive, chiaramente. Grazie. Altrimenti non inseguiamo. Altrimenti non riusciamo a far funzionare i macchinari. Aumentiamo il numero dei posti letto di terapia intensiva, rischiamo solo di aumentare poi il percentuale il numero dei morti, purtroppo. È chiaro. Antonino Giarratano, la ringrazio. Noi ci dobbiamo fermare per il traffico. A tra poco. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. È molto importante perché un'operazione che si basa su uno screening di massa nel territorio della sanità, per permettere alle persone che non possono permettersi un tampone a 50-80 euro di conoscere la reale positività o la negatività al Covid-19. Quest'audio che avete ascoltato si parla di un'iniziativa che sta prendendo piede a Napoli, dove esiste da anni il caffè sospeso, un caffè che viene pagato per chi non se lo può permettere. E ora i napoletani si sono inventati il tampone sospeso, il tampone solidale, e quindi hanno trasformato in ambulatorio la Basilica di San Severo a Capodimonte, e dove fanno questi test, questi tamponi, per verificare se si è positivi al coronavirus o meno per chi non se lo può permettere. Do il benvenuto a Mario Donatiello, tra i responsabili della Fondazione Comunità San Gennaro Onlus, che si è occupata proprio di lanciare questa iniziativa. Buonasera. Buonasera, grazie a voi dell'invito. Allora, partiamo con la premessa che sarebbe bello che un tampone, che è un diritto, venisse fatto a chi ne ha diritto, senza bisogno di mendicarlo in una basilica. Diciamo anche che poco fa il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha detto che c'è bisogno di medici e infermieri a Napoli, c'è un problema di accesso alle cure, l'ASL dice fa pochi tamponi, quelli privati costano tra i 60 e i 100 euro, le ambulanze non arrivano, si può aspettare anche un'ora, e se si chiama un'ambulanza privata può arrivare a costare anche 1000 euro. Allora, come premessa, tutto questo è uno scandalo, però voi vi siete inventati qualcosa, straordinari napoletani che si sono inventati il tampone sospeso. Ci spiega, Donatiello, in cosa consiste? Noi siamo abituati a, diciamo, a dare risposte piuttosto che a fare polemiche. È chiaro che in un'emergenza di questo tipo qualunque tipo di sistema può andare in difficoltà. Si tratta di un'emergenza sanitaria, secondo noi, senza precedenti. E che cosa abbiamo fatto? Come sempre, la nostra fondazione, prima di dar vita a delle iniziative, parte appunto da un bisogno, e quindi abbiamo pensato di offrire a chiunque lo volesse un tampone a un prezzo, diciamo, equo, di 18 euro, all'interno, come lei ben spiegava, di una basilica, perché era l'unico spazio più prossimo alle persone, diciamo, del nostro quartiere, e anche per sua natura la chiesa è un luogo proprio idoneo, diciamo, per, come dire, accompagnare le sofferenze per sua natura. E quindi abbiamo pensato di dare una risposta immediata, offrire un tampone a un costo equo, e allo stesso tempo abbiamo, riprendendo la tradizione del caffè sospeso, pensato al tampone sospeso, cioè diamo la possibilità a chiunque voglia di fare un'elargizione benefica per pagare il tampone a chi non se lo può permettere neanche ad un prezzo basso. È un'iniziativa che si limita a Napoli o avete intenzione di lanciarla anche in altre città d'Italia, in Lombardia? No. Insomma, non siamo messi tanto bene, eh? Noi siamo una fondazione di comunità, quindi siamo necessariamente per vocazione legati al nostro territorio. Ciò non toglie che chiunque, insomma, può anche mutuare l'idea e attivarsi. E attivarsi nella sua città. Se chi volesse città contribuire, diciamo, a questa iniziativa, può andare sul sito della nostra fondazione, lì troverà le coordinate bancarie dove può effettuare un bonifico con la causale tampone sospeso. Questa è la seconda iniziativa nell'ambito, diciamo, di questa emergenza, perché la prima che abbiamo attivato nella prima fase è stato il programma Nessuno si salva da solo, Con questa campagna noi abbiamo raccolto circa 200.000 euro e abbiamo da marzo fino al 31 ottobre ad oltre 200 famiglie consegnato delle card settimanali per effettuare la spesa all'interno del proprio quartiere dai piccoli commercianti e quindi non dalla grande distribuzione. Quindi non è la prima iniziativa in questo senso. Io la ringrazio e la saluto, Mario Donatiello, tra i responsabili della Fondazione Comunità di San Gennaro Onlus. Adesso parliamo invece di spettacoli. Se mi chiedete qual è il più bel regalo che hai ricevuto, io rispondo: il vostro affetto. È stato veramente enorme, è stata un'onda meravigliosa che da diversi giorni mi sta avvolgendo. Grazie a tutti voi per la carica che mi avete dato, per il sostegno. Sappiate che voi mi volete bene, ma anche io voglio bene a voi perché ho dedicato tutta la mia vita al mio pubblico e voi siete il mio pubblico. Quindi grazie, grazie di cuore. Vi voglio bene. Parliamo di cinema e parliamo anche di compleanni, perché oggi è il compleanno di Carlo Verdone, compie 70 anni, lo avete sentito in questa diretta Facebook che ha fatto per ringraziare tutti coloro che lo hanno festeggiato, dal presidente Mattarella alla sindaca Raggi, al mondo dello spettacolo. Marta Cagnola, buonasera. Buonasera Valentina, buonasera a tutti. Io devo dire che stavo ascoltando Verdone e conoscendo com'è Scaramantico, secondo me lui è combattuto tra la valanga di affetto che lo rende felice e anche un pochino di scaramanzia, perché questo hashtag Verdone70, come era sui titoli, sui social, secondo me un po' l'ha spinto alla scaramanzia, però certo, insomma, un giorno di grandi omaggi, soprattutto la telefonata del Presidente della Repubblica che ha definito il regalo più bello. Mi sono chiesto se merito veramente così tanto, insomma, davvero davvero importante. 40 anni di carriera, 9 David di Donatello, poi gli hanno chiesto in occasione del compleanno qual è il suo erede, anche qui insomma la scaramanzia ci avrà messo la zampina con Verdone, no? Perché chiedere dell'erede. Sì, infatti, anche perché diciamo che lui era già lui stesso stato definito l'erede di Sordi, perché Alberto Sordi lo trattava da figlio e non era un caso, insomma, che avesse interpretato il ruolo, insomma, di padre e figlio insieme. È stato proprio un rapporto molto stretto. Non dimentichiamo che Carlo Verdone è figlio di un grandissimo maestro come Mario Verdone ed era stato accompagnato anche da Sergio Leone nei suoi primi film, insomma. Devo dire che lui poi ha raccontato l'Italia per tutti questi anni, ti ho detto 40, ma direi anche quasi 50 anni di carriera, mettendo gli esordi, mettendo le cose televisive, mettendo le prime cose a teatro, gli anni ormai sono quasi 50. Lui dice: non sono stato l'erede di Sordi, non c'è un erede di Sordi, non ne avrò nemmeno io. Non ne avrò nemmeno Quindi, io. È un po' scaramantico, non lo so, forse realista. Marta, ecco. Lui, insomma, per tutti noi è molto Roma. Invece, passando a Milano, in queste ore si parla molto degli Ambrogini, dati a Chiara Ferragni, influencer, al marito cantante Fedez. Ma chi sono gli altri che hanno ricevuto gli Ambrogini del mondo dello spettacolo? Sì, devo dire, è importante sottolinearlo perché Fedez e Ferragni, per il loro impegno per Milano, sicuramente l'anno scorso c'erano state delle polemiche, quest'anno credo che insomma sia chiaro quanto se lo siano meritato, ma ci sono dei personaggi importantissimi per la cultura e lo spettacolo di Milano. C'è Fabio Concato, che pochi sanno non si chiama Fabio Concato, ma di cognome fa Piccaluga, ed è l'erede di una tradizione musicale milanese molto importante. C'è Claudio Trotta, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene perché spesso è nostro ospite, è un grande organizzatore di concerti, grande amico di Bruce Springsteen, e qualche anno fa fece un braccio di ferro con i milanesi perché l'avevano multato per aver sforato i minuti del concerto di Bruce Springsteen a San Siro. Se ne era parlato molto, ma certo lui è l'amico e il fedele compagno di lavoro di tantissime star internazionali che si sono esibite a Milano. Milano, e poi Sergio Escobar, per tanti anni direttore del Piccolo Teatro di Milano, un'altra figura estremamente importante per la vita culturale di Milano. Sì. Grazie a Marta Cagnola, grazie anche ad Alessandro Schirano, Jacopo De Franchi in redazione, Peter Bescapè in regia. A tutti voi per l'ascolto, a tra poco con i titoli.